musica è guardare più lontano e perdersi in se stessi. La luce che rinasce con gli aerei rinfreschi. Io sento ancora cantare malita di chi ascolta ma non sente, prima che il silenzio scende a ogni cosa, quel silenzio grande dopo l'aria esplosa. Perché musicale.